laureato tre volte a Torino e a Milano in lettere, filosofia e pedagogia. Insegno a Milano e a Trento per oltre di 50 anni. Da qualche anno si interessa di bibliografia e storia trentina. Ha dedicato di questo campo una decina di pubblicazioni su questo argomento. Ha studiato gli inizi della produzione stampata, della produzione di librari, manoscritta e stampa nell'ambito trentino al tempo del nostro vescovo. Io prego di prendere la parola per sua relazione. Io cercherò di essere il più breve possibile, perché mi sono accorto che tutta la relazione comporterebbe più di un'ora e mezzo. Quindi se qualcuno, qualche orecchio sensibile, sente qualche stacco, insomma, dovrò avere un po' di pazienza. Comunque la relazione sarà pubblicata per intero e quindi non credo che soffra anche di disturbi. L'argomento di cui ci occuperemo ora non è tanto riferibile al personaggio e alla sua attività, che saranno argomento di studio, di discussione in altri capitoli. È un denominatore riferito soprattutto all'ambiente, nella particolare parentesi di produzione libraria, manoscritta e a stampa, una ricerca, insomma, di quanto può essere bibliograficamente e storicamente definito nell'ambito temporale del nostro umanista. Nella parentesi storica in cui attore Giovanni IV Hinderbach, il nostro principato era ormai lontano dall'esperienza vissuta mezzo secolo prima nella breve illusione di libertà pubblicana fatta balenare da Negro De Negri e da Rodolfo Belenzani. Il principato, tenuto tradizionalmente da principi vescovi legati alla Casa d'Austria, abbandonato alla rassegnazione di pesanti compromessi temporali imposti dal suo potente avvocato, il Conte del Tirolo, andava riducendo a suo favore la propria diretta legittimazione imperiale. Proprio in quel periodo si veniva preparando un risveglio spirituale attorno a eminenti figure di umanisti a cui si legherà la cultura del secolo. Con essi si riprendono e rifioriscono le belle raccolte di codici da tempo avviate dai principi vescovi Giorgio di Liechtenstein, dai suoi successori, raccolte che già sul nascere avevano sofferto le rapine di Federico Tascavuota e le manomissioni tirolesi durante l'esilio di Giorgio Ach. Dopo questa parentesi relativa all'ambiente storico, letterario e umanistico, dobbiamo riferire soprattutto dei personaggi più direttamente legati all'esperienza libraria trentina. Hinderbach conosceva da vecchia data due poeti, il bresciano Giovanni Tiberino, suo familiare a Trento e un tempo suo condiscepolo all'Università di Padova, dove studiava filosofia e medicina, e il triestino Raffaele Romeo Sovenzonio, che da Padova era poi passato a Ferrara a concludervi i suoi studi umanistici presso il Guarino. È a questi due vecchi goliardi che farà appello il nostro vescovo nella drammatica vicenda che accompagnerà le novità librarie di cui dobbiamo occuparci. Per il momento riteniamo maggiormente interessante la figura del più qualificato dei due, lo Sovenzonio, poeta più volte laureato, che si era stabilito a Venezia, dove era occupato a revisionare le stampe dei classici latini per le edizioni di Vindelino da Spira. Al fervore di quel grande centro editoriale, egli concorreva componendo dei colophon da apporre ai testi classici più importanti e qualche lirica di occasione più ridondante di compiacimento personale che dotata di merito poetico e non solo a giudizio dello Steinberg. Tali per esempio risultano i due Carmina concitatori ad Principes Christianus in Turcum in strofe saffiche che gli diedero modo di incensare il suo vecchio amico. Più esplicitamente si raccomandava a lui nel 1474 con una strenna natalizia, l'Istrias, un tessuto lirico di ricordi goliardici. Nell'accompagnatoria in cui si presentava come poeta e come compater, era il padrino della figlia, avvertiva l'illustre amico del dono prezioso di un proprio ritratto miniato dal Ciambellino che ornava la prima pagina. Lindenbach se ne ricorderà qualche tempo dopo, invitando a Trento il suo amico, già poeta laureato, ad visitandum beatum Simonem, miraculis clarum, et ad concinnandos versus ineius honorem. Ma lo Sovenzonio non si mosse da Venezia. Fu allora che il vescovo gli mandò la relazione de Puero Simone, del Tiberino, di cui per l'occasione gli fece redigere una copia, che fosse coppia di pregio da riprodurre e da ornare con un certo impegno d'arte, lo indica la frase «cuius coppia tibi edi iussimus». Si noti che «edi» sostituisse il «mitti» della più corrente espressione. Si trattava infatti di ricambiare l'amico del prezioso Codex Purpureus dell'Istrias, miniato da un artista famoso, raccomandato alla riconoscenza con una dedica lusinghiera. Sul libello lo Sovenzonio concinnò i versi in onore di Simonino, secondo la preghiera del Hinderbach. Ne curò poi per proprio conto la stampa, la raccomandò con un carme al tipografo Gabriele Petri e ne spedì copia all'amico Michele Pacis di Roma. Ora, non è da credere che il pregio formale di quel libello, così come l'aveva avuto dal Hinderbach, potesse competere con la bellezza di un artistico codice miniato inviato come uno di quei doni che si fa con speranza di mercede, come dirà l'Ariosto d'Italia. La sede scrittoria del Principato Trentino non era certo quella prestigiosa di Venezia. A Trento, più modestamente, vi tenivano scuola maestri scrittori, come informa il manoscritto 422 della Biblioteca Comunale Trentina. E una rappresentanza di essi continuò a copiare codici e testi sacri e profani, tesi di laurea e libri di preghiera. Però era una scuola impegnata in un'assidua attività sostenuta da un'ammirazione che non venne mai meno anche dopo l'avvento della stampa. Dell'opera di quegli amanuensi si servivano i canonici trentini, come fece Ambrogio Glaspech nel 1471, per la trascrizione delle vite dei pontefici romani di Giovanni di Nimheim. A quell'arte scrittoria dava la propria opera anche uno degli ebrei trentini, Israele figlio di Moar, un personaggio ambiguo, battezzato col nome di Wolfango, di cui si parlerà in occasione del processo contro gli ebrei. Era calligrafo amanuense, miniatore, legatore di libri al castello, dove si suppone fosse lo scriptorium. Operava assieme a un altro miniatore di Salisburgo, al pittore Leonardo e a altri artisti occupati alle miniature e alle numerose immagini di Simonino, tutte pulcherrime, come assicuravano il Sovenzonio e quanti le diffondevano poi nel Veneto. Alla loro opera doveva ricorrere anche il vescovo nell'ordinare la riproduzione dei codici, come era avvenuto per quello riguardante la vita di San Stanislao di Sant'Adalberto. In genere, l'opera degli amanuensi, che non mancavano di ornare e miniare le iniziali e il testo, era preferita dagli umanisti a quella dei tipografi. Prima del 1475, nella biblioteca del nostro umanista, Rerum Vetustarum o Antiquarum Studiosus, come si compiaceva di definirsi in più occasioni, c'erano forse un paio di incunaboli, di cui uno vi capitò per caso, allegato com'era a un codice di miscellanee. Anche questo, inizialmente almeno, concorre a confermare la presenza di un'attività scrittoria di cui si potesse disporre in continuità, o meglio, la necessità di tenerla efficiente. Sappiamo, d'altra parte, che gli incunaboli non vennero a interrompere una tradizione per avviarne un'altra senza compromessi di sorta. Generalmente, e non solo da noi, al tempo dei primi tipografi di transito, l'aristocrazia cittadina non si mostrava sempre entusiasta della nuova arte. La sua diffidenza e il riserbo nei confronti delle novità libresche realizzate meccanicamente possono eguagliare quella odierna per le riproduzioni in serie. In certi casi si arrivava persino a preferire gli esemplari che i calligrafi ricopiavano con maggiore spesa dagli stampati più suggestivi anche nel corso del Cinquecento. Così fece per esempio il cardinal Giuliano della Rovere, il futuro Giulio II. il suo calligrafo gli ricopiò uno splendido esemplare di Mendelino da Spira, sostituendo nel colophon scripsit Tianus. Vespasiano da Besticci, nelle sue memorie, le ha sottoscritto che il duca Federico da Urbino aveva libri belli in superlativo grado, tutti scritti a penna e niuno a stampo, che se ne sarebbe vergognato. Il nostro vescovo non arrivò tanto. Fece copiare a Roma nel 1467 i 5 codici delle Decades Historiae Italiae ab inclinatione Imperii Romani di Flavio Biondo, quando però non erano ancora stampati. Sul riserbo del Hinderbach per la stampa locale possiamo aggiungere una testimonianza più diretta. Nella capsa 69 dell'archivio principato del principesco vescovile di Trento, al numero 185, sezione latina, diurnale elemosinarum, esistono 230 carte manoscritte che rendono conto delle cospicue entrate delle oblazioni e dei lasciti in onore di Simonino, che in onore di Simonino provenivano da ogni parte della Germania e d'Italia. Ad esse il principe vescovo Hinderbach attingeva largamente per sovvenzionare ogni opera materiale e di concetto che contribuisse all'esaltazione del povero Simonino. Ce n'era per tutti, dagli operai che lavoravano alla chiesa, agli artisti che ritraevano le immagini, ai poeti, agli amanuensi che concorrevano alla celebrazione sua. Ebbene, nella documentazione di tante pagine, padre Frumenzio Ghetta, come riferirà meglio lui stesso, non trovò una riga o una voce che ricordasse il Cunne e la sua opera originale. Non basta. Scrivendo allo Sovenzonio pochi giorni dopo la stampa trentina, che è del 6 settembre, cioè il 1 ottobre 1475, il vescovo non fece cenno della grande novità, né lo farà in seguito. Su questo silenzio torneremo presto. Intanto, per concludere questo capitolo sulla consistenza libraria manoscritta della Biblioteca Vescovile Trentina, in attesa che emergano altre novità, come sta succedendo per l'incunaboli, possiamo dire che 3/5 dell'intero fondo dei manoscritti attestati dal catalogo Gentilotti sono costituiti dai codici acquistati o fatti ricopiare da Hinderbach e ci permettono di ritenere che quanto è emerso sulla produzione manoscritta trentina al tempo di Hinderbach possa legittimare la presenza di una sede scrittoria, per quanto modesta, e attenda piuttosto di essere meglio qualificata che messa in dubbio. Abbiamo detto che il vescovo Hinderbach si comportò come se ignorasse il Cunne, ma non possiamo credere che gli sia capitato fra i piedi come l'elitropia a Calandrino. Si potrebbe spiegare quel silenzio come fosse consigliato dall'opportunità pratica dovuta alla presenza del commissario pontificio, incaricato del riesame degli atti processuali e della legittimità delle condanne agli ebrei. Già il Papa Sisto IV, il 23 luglio, aveva ordinato al vescovo di sospendere il processo e l'opera di esecrazione anti-ebraica che da troppi mesi veniva dando esempio di una spettacolarità disumana. Abbiamo ragione di ritenere che Hinderbach avesse ricusato di proposito le stampe del Piccolomini e in parte quelle del Cunne e del Longo per delle ragioni di risentimento personale nei confronti del primo, almeno nella seconda parte della sua esperienza, dei suoi legami con il Piccolomini, e di prudenza o di antipatia di principio per gli altri due. Queste ipotesi non sorprendono poi tanto. Delle numerose opere di Papa Piccolomini, nemmeno una era presente a onorare la sua biblioteca, eppure si trattava di opere pregevoli che potevano certo onorare la sua biblioteca. Si trattava di un umanista di primo piano, non solo, ma anche di un'amica, almeno nel primo tempo della sua esperienza con lui. Mancavano infatti una decina di incunaboli del Piccolomini stampati prima del 475, di cui si riporterà in altra occasione anche l'elenco. Mancano persino le epistole incardinalatu edite, che contengono anche quella del Hinderbach, allora segretario regio, che è tutto dire. Per quanto riguarda i rapporti col CUN, ci sarà perdonata la citazione di un'opera che rende conto della sua attività di libraio e di stampatore e sembra suggerirci che il CUN conoscesse l'Hinderbach e a Trento fosse venuto con la speranza di un ufficio stabile di stampatore vescovile, come avveniva spesso in Germania e in Italia. La copia di un codice cum supplemento Enae Silvia Fridericum Tertium Imperatorem, assieme a un altro manoscritto del Piccolomini che comprendeva i suoi libri di cosmografia, venne in mano al CUN, il quale, allo stesso modo del suo collega Teutonicus citato un po' prima, si presentò al cappellano di Bernrhein, Michele Christian, appassionato di cosmografia, per pregarlo di rivedere e togliere certamente imputabili al copista, cosa che gli fece volentieri. Il CUN non poté avere invece da Hinderbach la sua continuatio Historia Australis Rerum Gestarum a Federico III Imperatore. Così il CUN poté stampare il suo manoscritto qualche anno dopo a Memmingen, privo dell'appendice dell'Hinderbach, che venne stampata solo nel 1760 a cura di Collar tra gli Analecta della Biblioteca Cesarea Viennese, che solo ora tramite il Monsignor Iginio Roger è pervenuta anche qui in copia, qui a Trento. Comunque ci sembra piuttosto generica la tendenza a dedurre la venuta a Trento del CUN e l'avvento della sua prima stampa trentina solo dal richiamo delle novità di cronaca del povero Simone, e a quella si ferma come ad un'unica giustificazione. Tuttavia, cogliendo la cronaca da una tale angolazione, dovremmo concludere pessimisticamente le nostre note. Ma la tempora, se un fatto così poco edificante, fu proposto a riempire tanti incunaboli locali e stranieri, oscurando la preminenza di ogni altro fattore civile e culturale. Consapevoli però che ogni libro ha una propria ragione d'essere più profondamente congenita a chi lo crea e lo legittima anche al di fuori del suo ambiente, del quale non può riconoscersi, nel quale non può riconoscersi né giustificarsi in modo assoluto, ci siamo proposti di renderne conto e di mettere in luce la singolarità e le anomalie di un'opera anonima di impostazione così poco trentina. Qualcuno sospettò che l'esigua rappresentanza di elementi culturalmente qualificati fosse tutta di immigrazione in una terra già definita semi-barbara per la commistione delle due lingue italiana e tedesca. Ciò appunto giustificherebbe per qualcuno la versione del nostro primo incunabolo, ma anche questo va collocato in un altro stato. Lo Zippel, contrariamente a quanto sosteneva il Bruni, concluse che la minoranza tedesca stabile non superava il quinto dell'intera popolazione e era rappresentata da uno solo dei sette consoli. In altra occasione abbiamo riferito della falange dei maestri di arte grammaticale dei nostri rettori nelle scuole di Piemonte, dell'Emilia, del Veneto, soprattutto a Venezia, della larga schiera di studenti trentini, tra cui una Madonna Lucia, dei professori universitari, dei giureconsulti trentini a Padova e a Bologna, di alcuni poeti precursori dei più famosi Niccolò d'Arco, Jacopo Vergnano, Giovanni Lagarino, dei protomedici di chiara fama o Cesarei, degli studiosi, dei pittori, degli uomini d'arte, dei musicisti, dei comici, che in questo scorcio di secolo contribuirono al più largo risveglio umanistico-scientifico, non solo regionale. E ciò basterebbe a escludere che l'opera anonima tedesca, stampata dal CUN, potesse avere una paternità o una commissione trentina. Essa risente troppo di una impostazione di altra mano, scandita com'è in episodi che ricordano le stazioni di una via crucis, conclusa poi sui particolari di vendetta e di faida che sono in distonia con lo spirito latino e tendono a giustificarsi come una punizione non solo riparatrice ma anche meritoria. Tutte argomentazioni queste che insieme al compiacimento per questo nostro primo incunabolo ci rinnovano un senso di delusione. Tornando al nostro compito, lasciando in sospeso la sostanza e la paternità letteraria e figurativa di questo prezioso incunabolo, seguiamo piuttosto la singolare vicenda del carattere gotico romanizzato 79G usato dal Cunne per questa e per le altre opere trentine. È certo che il carattere 79G fu usato a Trento fino al 1478 per altre quattro opere, di cui solo la prima porta i dati della stampa dell'autore, Ermanno Schindelheim, il che, se non consente la certezza di una permanenza del Cunne a Trento, convince almeno della cessione del suo carattere ad altri tipografi. E per rendercene conto dobbiamo lasciare, prima di lasciare il Cunne alla nuova destinazione, Memmingen, dobbiamo rifarci il 1 ottobre del 1475. A quella data il principe vescovo, scrivendo all'amico Sovenzonio, poco dopo che era uscita l'opera del Cunne, gli prometteva una novità di altra mano, forse la Historia completa Beati Simonis, condotta sui manoscritti del Tiberino, prossima a venire in luce, o più probabilmente l'opuscolo In Miracula Beati Simonis Martiris Nibellus, in cui il Tiberino tesseva una storia delle grazie ottenute su intercessione del presunto martire. Non è l'opera in sé che interessa, ma il fatto che a curarne la pubblicazione fosse stato incaricato lo Schindelheim, un Kammerer o Aulicus o commissario amministrativo del Vescovo, come viene presentato. Oltre ai manoscritti del Tiberino, la nuova edizione doveva raccogliere le attestazioni più attendibili o meno sospette, ricavate da tutto il cumulo di fascicoli anonimi o quasi, che promiscuamente alternavano testimonianze e riserve, esaltazioni e diffide. Appare evidente l'urgenza del Vescovo di intervenire tempestivamente in difesa del suo operato con ogni forma di documentazione, dopo le precise accuse di imprudenza di cui era sospettato dalla sede romana. Di qui, più logicamente forse, l'anonimato delle stampe trentine, riferibile ai protagonisti della vicenda, soprattutto al Vescovo, che risulta sempre defilato tra le quinte dei frontespizi. Che lo Schindelheim potesse risultare il curatore dell'opera del Tiberino per una seconda edizione riveduta o ampliata, o che ne fosse il curatore di vendita o l'editore in senso moderno, lo riteneva anche lo Scholderer, postillando il catalogo del Museo Britannico a proposito dello Schindelheim autore. La nuova versione avrebbe coperto il Vescovo da ogni responsabilità di ordine pratico e disciplinare, come vedremo, e farebbe pensare a un prudenziale esonero dei laici dall'incarico di redazione di stampa dell'Historia, in modo che il compito di autore, augere, ampliare e produrre, fosse assunto dallo Schindelheim su tutta la produzione che il Tiberino aveva dedicato e lasciato al Vescovo nel luglio del 1475 in obbedienza alle sue sollecitazioni. La questione merita di essere riproposta attentamente. La novità di una figura che si presenta in un rapporto così ben definito con lo stampatore da sostituirlo anche nei dati tipografici e da addossarsi tutto il carico giuridico e commerciale dell'opera si raccomanda come un primato d'eccezione. Un tale ruolo, una tale funzione di editore non si determinavano né si stabilivano così in anticipo nemmeno nei paesi più evoluti dell'Europa, dove per lungo tempo ancora chi stampava assumeva anche le mansioni di editore, oltre a quelle di fonditore, di caratterista, di revisore letterario e di libraio. La cosa lascia supporre che nell'assumere, forse è meglio saltare anche qui, è troppo lungo. Con questi interrogativi, comunque, concludendo, dobbiamo dispensarci da una conclusione definitiva su questa storia completa e sulle altre opere attribuibili al Cunne e accontentarci di riassumerle solo nei dati tipografici delle stampe uscite con il primo carattere, il 79G, come se questo bastasse a riconoscerne la paternità dopo la prima illustre primogenita. Sono Tiberinus, Historia completa de passione, Beati Pueri Simonis, Tridenti, Quinto Idus Febrari, Ermanno Schindelheim autore, il 9 febbraio del 76, la seconda, l'aspra crudeltà del turco a quelli di Caffa, posteriore al giugno del 75, Sylvester de Balneo Regio, conclusione, supercanonizzazione, Beati Simonis, Tridentini, posteriore anche questo, al 6 dicembre del 75, è un ritratto di Momento II, un foglio velante con un testo tipografico nel verso. L'affermazione del Bampi su presunti altri incunaboli trentini non credo che abbia fondamento, e se ne riportano le ragioni nella relazione completa. Intanto all'esordio poetico del suo Venzonio avevano fatto eco con diversa lingua, diversa modulazione poetica, Giorgio Sommariva e una terza rima, anche quinto cimbrico in un'edizione latina, stampata nel corso dell'80. Proprio quando a Trento un altro tipografo stava impostando i versi celebrativi di Giovanni Calfurnio, Mors et Apoteosis Simonis Infantis, conclusi con un'altra esaltazione poetica dello suo Venzonio, che per l'occasione riprendeva il suo vero nome, Rafael Romeus. Altorchio era di turno una delle figure più singolari di preti stampatori. Giovanni Leonardo Longo, oriundo di Torre Belvicino presso Schio, dove aveva preso l'arte da uno dei tanti prototipografi scesi dal nord, col quale poi stampò alcune opere a Vicenza quando era pievano. Venuto a Trento nel 1479-80, compose le matrici della prima edizione dei Carmina di Calfurnio, col vecchio carattere 79G, quello appunto del Cuneo. E tutto fa credere che lo trovasse a Trento o addirittura che l'avesse avuto direttamente dal Cuneo, preferendo questi sostituirlo perché troppo romanizzato per la nuova sede di Memmingen a cui era diretto. Da parte sua, anche il Longo userà il 79G solo per la prima edizione del Calfurnio, adottando per le edizioni seguenti del Dottrinale e della Cattinia il suo ultimo carattere romano. A parte i numerosi risvolti della scelta tipografica, dobbiamo dire che sono molti gli interrogativi aperti su questa inquietante figura di stampatore. Il Tovassi, infatti, nella sua opera, in cui presenta un po' tutti i sacerdoti, anche pare che si intitoli il parrocchiale tridentino, non ne fa cenno. Eppure non dovevano mancare i meriti di una menzione presso un suo superiore mecenate umanista, se non altro per la stampa del Dottrinale e per le tre pubblicazioni celebrative di Simone. Se il silenzio sul Tiberino e sul Cunne per tutto l'arco d'un lustro si giustifica anche e soprattutto con la loro partenza da Trento, è proprio la loro assenza che doveva raccomandare il nuovo tipografo, sia per le benemerenze acquisite nella stampa delle opere ascetiche con le quali si presentava a Trento, sia più tardi per quella letteraria della sua Cattinia, una novità assoluta che tiene il primato delle commedie in prosa volgare nella nostra letteratura nazionale. Tuttavia, conoscendo gli umori del nostro vescovo verso certa stampa, non dobbiamo sorprenderci. Iniziò dunque il Longo con una prima edizione dei Carmina di Giovanni Calfurnio, completati da Duo Carmina Divo Simoni Tridentino Innocentissimo di Rafael Romeus, Ter Poeta Laureatus. La seconda opera è il Dottrinale di Alexander Gallus, datato in Tridento 11 aprile dell'81. La terza e più importante opera è la Cattinia di Xico Polentonus, datata in Trento il 29 marzo dell'82. Qui ci sia permessa una breve parentesi di presentazione sulla scena, presentata dal Polenton in un dialogo tra ubriaconi attorno a un motivo apparentemente banale. Se ricorda il tema della vera letizia, non è certo per la famosa predica di San Francesco a Frate Leone. È una letizia, a giudizio loro, compromessa dallo studio affannoso degli umanisti che per i cinque beoni crea un'illusione ingannevole di sapienza, un vizio assurdo come ogni altra smania di gloria e di successo. oltre il sipario dell'ironia e del tono semiserio velato dal linguaggio di peoni rossi e furbeschi, si avverte l'aspirazione a una più larga e naturale spontaneità. Già le prime ventate rinascimentali sembrano dissolvere ogni residuo di fantasia astratta e suggerire all'uomo nuovo e all'intera umanità un senso e una giustificazione vitale più pratici e promettenti, un destino più disponibile e meritorio. Si lanciava la sfida all'arido formalismo delle dispute scolastiche, ma anche alla presunzione aristocratica, insensibile a esigenze più umane e sociali. Questa incomprensione, reciprocamente ricambiata tra i ceti privilegiati e le forze servili, non tarderà a coinvolgere e a contrapporre umanesimo e riforma per accendere presto anche da noi i moti sociali che covavano già al tempo del Hindenburg e si faranno ribelli e rivoluzionari qualche decennio più tardi, raccogliendo simpatie e consensi a sostegno dei nuovi visionari della libertà. Per il momento il prudente tranquillo umanista portava il dialogo fuori da quelle illusioni, affidandole ai suoi peoni, che se la prendono con la fame, con le guerre, con le costanti spoliazioni dei poveri, senza denunciare le cause e responsabili di quelle soperchierie e di ogni altra pazzia, come faranno Erasmo e il Montaigne. Anche così dimessa, la Catinia rappresenta la grande eccezione tipografica del nostro ambiente e del Longo, che presto l'opportunità richiamerà al vecchio motivo di Simone, con la sola parentesi di due opericiole dottrinali, super magistrum sententiarum e super totum decretum. Egli riprenderà in seconda edizione i Carmina di Calfurnio di Sovenzonio, datate Tridenti nell'82. Infine, il 5 settembre 1482, in occasione del settimo anniversario della prima e più celebre pubblicazione illustrata del Cunne, nel suo ultimo lavoro, congedato con tutti i dati tipografici, il Longo raccolse l'intera opera poetica del Tiberino, Epigramma in Beatum Simone, e con sollievo delle muse, e anche nostro, la concludeva definitivamente. Il suo motto, post tenebra spero lucem, messo in calce, poteva esprimere anche l'augurio di una giornata più felice alla sua arte, oltre che più serena alla sua vita. Con quell'opera, la fiammata di fervore sollevatasi con la disgrazia del piccolo Simone, causa di tanto dolore e di tanta esaltazione, si veniva spegnendo dopo aver acceso e alimentato la nostra prima avventura tipografica. Desidero ringraziare il professor Chemelli per il suo bellissimo, come vuol dire, riassunto di un grande studio sulla produzione libraria, manoscritta e a stampa nell'ambiente trentino di nostro vescovo. Abbiamo udito parlare una persona molto conoscente, un conoscitore di questo tema. Sappiamo finora che Trento era in questo periodo un sede, un centro della studia, della produzione a stampa. Adesso abbiamo ricevuto un ritratto, come vuol dire, più completo e valoroso di questo tema.